edizione. Eccoci qua, cominciamo parlando di libri questa mattina, perché ieri si è chiusa davvero con un inaspettato segnale positivo rispetto alla crisi economica, la 25esima edizione del Salone del Libro di Torino. Rispetto allo scorso anno i visitatori sono cresciuti ed è un dato davvero in controtendenza rispetto a tutti quelli che vi stiamo dando in questo periodo, sono cresciuti di oltre il 4%, a trascinare ovviamente ospiti popolari come Roberto Saviano, Ligabue, Alessandro Del Piero, ma tra questi c'era anche Serena Dandini, che al Salone del Libro di Torino ha presentato la sua prima prova narrativa, Grazie per quella volta, edito da Rizzoli, e allora l'ha intervistata Alessandra Tedesco. Non sono dei veri e propri racconti, in realtà il sottotitolo che gentilmente hai omesso per pietà recita Confessioni di una donna difettosa, e quindi più che racconti sono così delle confessioni personali, ma con così l'ambizione di far in qualche modo coinvolgere persone che hanno gli stessi difetti, appunto a proposito di difetti. Sono a metà tra racconti e autobiografia, memoir, ironic, serio, è un mischio di stile non ancora catalogato che mi è scaturito, quindi non so perché proprio adesso tutti quelli che fanno altri lavori si mettono a scrivere, che c'è pure la crisi della letteratura, gli scrittori ci odiano, però succede. Prima edizione. Sono le borse che hanno vissuto l'ennesimo lunedì nero a prendere praticamente quasi tutte le aperture dei quotidiani di questa mattina. Grande attenzione ai mercati. Allora cominciamo con il Sole 24 Ore. Grecia e derivati affondano le borse europee, così apre quest'oggi il Sole 24 Ore. E poi sulle perdite di JP Morgan, le parole di Obama, ve le abbiamo detto anche in GR24, Wall Street va riformata, Moody's declassa 26 banche italiane, così l'apertura del Sole 24 Ore, che guarda anche ovviamente al futuro a questo punto. E ad Atene, ora attenta la carta del governo tecnico, ci ricorda il Sole 24 Ore. Il punto di Stefano Folli, l'accento lo pone sui passi che in questa situazione ora dovrà fare ancora l'Italia. Il vento che soffia in Europa fa largo alla crescita. Questa volta la frase di Monti è sottoscritta dai partiti, quelli di maggioranza come quelli di opposizione. È conveniente per tutti, salvo rare eccezioni, vedere il nella sconfitta della Merkel in Nordreno-Westfalia il punto di svolta che allenterà il nodo dell'austerità. Così Stefano Folli, oggi a parlare con la Merkel andrà il presidente francese Hollande. Più avanti, come vi anticipavo, ne parleremo a prima edizione. La Stampa, anche qui stessa scelta, l'Europa spaventa le borse, Obama riformare Wall Street, la crisi greca affonda le borse, Obama riformare Wall Street, l'apertura anche per il Messaggero, la Repubblica lunedì di nero in borsa, vola lo spread, Atene voto tedesco, affondano i mercati. L'analisi dettagliata e complessa sulla Repubblica, se Wall Street è senza regole, Paul Krugman, uno dei personaggi dell'intramontabile film Ombre Rosse, è un banchiere che ai suoi sottoposti propina una lezione sui mali di big government, l'interventismo statale, in particolare della regolamentazione bancaria. Inizia così una lunga analisi su Wall Street senza regole. Il Corriere della Sera, il tema è lo stesso, l'angolatura un po' diversa, l'Europa sotto tiro cerca un piano, le borse bruciano 120 miliardi, Moody's declassa 26 banche italiane, spread a 424, la soluzione che fa paura, scrive il Corriere della Sera, che è appunto perdere Atene. A questo punto della crisi europea del debito le parole vanno maneggiate con cura, per come si dicono e per come si leggono. Per la prima volta, infatti, tutta Europa parla della possibilità dell'uscita della Grecia dall'euro. Ultimi arrivati alcuni esponenti della BCE. Così lo scenario di Danilo Taino sul Corriere della Sera. Vi do anche il titolo di Avvenire questa mattina, esame di euro maturità. Grecia e voto tedesco, spavento dei mercati, sale lo spread. Euro maturità, il termine scelto da Avvenire questa mattina per fotografare questa situazione. Situazione che in Germania Ha anche un nome e un cognome, ne abbiamo parlato anche ieri mattina, i pirati, i partiti e l'arrembaggio dei pirati dopo il voto tedesco, è l'immagine che campeggia questa mattina sul Corriere della Sera, che ci racconta questo nuovo movimento a firma di Pierluigi Battista, che sta sconvolgendo gli equilibri tedeschi, che a questo punto potrebbe pesare anche su altri paesi europei, noi naturalmente non ultimi. Altro tema che troverete un po' su tutti i quotidiani quest'oggi è quello dei numeri delle critiche arrivate dalla Corte dei Conti. Il Corriere della Sera, centro pagina, dipendenti pubblici, troppi permessi e poca produttività. Questo l'allarme arrivato ieri, allarme al quale dedica il taglio centrale anche il Messaggero, che le cifre le dà ben precise. Aspettative e permessi costano 151 milioni, troppi per i dipendenti pubblici. E nel mirino ora, scrive taglio centrale invece la Repubblica, arriva anche altro, vale a dire gli aiuti agli invalidi. Il piano dei tagli prevederebbe anche assegni interi solo sotto i 5.000 euro. Il governo è pronto a rivoluzionare il welfare assistenziale italiano. Scrive oggi la Repubblica, saranno riviste le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica e pronto un giro di vite sui redditi più alti. Nel mirino l'assegno di accompagnamento, tra l'altro, per gli invalidi. Così scrive quest'oggi la Repubblica. Sulla Repubblica restiamo per quella che è la notizia politica della giornata. La trovate un po' dappertutto. Sulla Repubblica si merita la fotonotizia. Inchiesta, quote latte, Zaia dai PM, ma soprattutto Lega, Bossi si arrende, Maroni sarà segretario. La resa dei conti che sembra essere arrivata al giro di boa nella Lega. C'è stato il Consiglio federale, Maroni sarà candidato unico. Altre notizie dalla giornata dai quotidiani di oggi. La stampa, l'attenzione la punta su un tema che è su due temi che sono molto piemontesi ma di interesse nazionale. Una è il rischio terrorismo lanciato per la TAV, il Viminale, la TAV è il vero allarme, cancellieri ma solo per l'ordine pubblico, quindi attenzione per la sicurezza in tutta Italia ma soprattutto per i movimenti no TAV, allarme lanciato ieri dal ministro Cancellieri, che dice comunque escluso qualsiasi rischio terrorismo. E l'altra invece è una vicenda che trovate in grande evidenza proprio sulla stampa in taglio centrale, ed sono le motivazioni delle condanne dei vertici aziendali dell'Eternit. Ricorderete la sentenza di Casale. Da gennaio ci sono stati altri 35 morti a Casale. Nel 2012 ci sarà il picco dei decessi, dice il ministro della salute Balduzzi. La battaglia non si ferma, dobbiamo andare avanti con le bonifiche. La sentenza c'è stata, i morti ancora ci saranno, perché l'amianto uccide a distanza di molto tempo, e l'attenzione così puntata oggi sul quotidiano La Stampa. La Stampa, dove trovate anche questa notizia che trovate un po' dappertutto, meritato la prima pagina, la fotonotizia per La Stampa. Il mare italiano sempre più blu, le assegnate ieri le cosiddette bandiere, con la Liguria in testa e Savona la provincia più virtuosa. Qualche sorpresa nelle bandiere blu di quest'anno davvero c'è stata. Allora, qualche altra curiosità velocemente dai giornali di oggi. Il Messaggero, sentite un po' che succede in Campidoglio. Vanno a ruba le fasce tricolori per i matrimoni. Chi si sposa e se ne va con la fascia tricolore di chi l'ha sposato. E allora il Campidoglio ha lanciato un appello ai consiglieri: restituitele. Il Campidoglio di fasce tricolori comincia a scarseggiare perché spariscono dopo le celebrazioni dei matrimoni. La Gazzetta dello Sport, Mancini, Balotelli, me lo tengo, intervista a quello che viene definito il nuovo re d'Inghilterra, ha vinto la Premier col City in una finale mozzafiato, e dice alla Gazzetta dello Sport, Mancini, Mario resta. Ibra, questa la domanda, mi sembra difficile. Queste per ora le parole di Mancini. E allora, in qualche modo, al mondo del calcio noi restiamo legati. Abbiamo già parlato del Salone del Libro e dei molti personaggi che ci sono stati in questi giorni. C'è stato anche Alex Del Piero, che dopo la Scudetto con la Juventus si è calato nella veste invece di scrittore. È stato tra gli ospiti dell'ultima giornata del Salone del Libro, anche con un siparietto con i tifosi. C'era per noi Alessandro Tedesco, e allora ve lo facciamo ascoltare. È difficile, ammiro di più gli scrittori adesso, io non lo sono chiaramente, però li ammiro perché costruire un libro e poi cercare di esprimere le proprie emozioni, cercare di... Boh, per me è difficile, è stato, però mi hanno aiutato in tanti, questo ne sono felice. Per quanto riguarda poi invece il mio giocato sarà domenica, perché sapete come la penso. E da domani riprendiamo gli allenamenti per preparare questa finale, perché ci teniamo in modo particolare tutti quanti. Senti, ma cosa si prova a essere amati in questo modo totale? Sì, no, è indicibile, sta dicendo che è indicibile, è così, sì. Siparietto, l'avete sentito dunque ieri al Salone del Libro di Torino, così Alex Del Piero. Noi torniamo tra pochissimo alle 7:20, ancora le prime quotidiani con Alessandro Milan, tra poco le notizie di oggi. Prima edizione. Italia in controluce. È la mattina di Radio 24, benvenuti e ben svegliati da Daniele Biacchessi per Italia in controluce. Torniamo ai fatti di politica nazionale con la crisi del Popolo delle Libertà, che al primo turno delle ultime elezioni amministrative ha certamente dimezzato il suo consenso, passando da partito di maggioranza relativa ad un partito di medio calibro. Il reportage di Valeria De Rosa. Non ho sentito una sola voce che dicesse, avanzasse dei dubbi su quello tra di noi che tutti noi abbiamo trovato fosse la persona giusta per diventare il primo segretario del Popolo della Libertà, Angelino Alfano. Qualcuno ritiene che la parabola discendente sia cominciata qui. Un partito così profondamente identificato con il suo ideatore non poteva passare di mano. La storia di Forza Italia e del Silvio Berlusconi politico inizia con un discorso trasmesso dalle sue TV. Era il 1994. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Un sogno per molti, una scappatoia per altri. A voler essere precisi, però, Forza Italia nasce alla fine del giugno del 93 nello studio del notaio Roveda a Milano. Di lì a poco i manifesti cominceranno a invadere le città. Lui, Berlusconi, all'inizio negò. Alle politiche successive, Forza Italia, unica vera novità, fece il piano di voti in un paese lacerato e ancora scosso da Tangentopoli. Del resto, Silvio diceva di essere il nuovo che avanza. Da lì in avanti è caduto tre volte. La prima fu lunga, la seconda, dopo una legislatura piena, cedette il passo all'Ulivo. La terza, nel novembre scorso, potrebbe essere quella definitiva. Già nel 2007, però, lui, il capo, decise che bisognava dare una sferzata al partito e ai militanti. A Piazza San Babila, a Milano, battezzò il Popolo della Libertà. Poche ore prima, Fabrizio Cicchitto era stato contestato al convegno di Alleanza Nazionale. Forse tutto era già scritto. Il resto è storia recente. La vittoria alle politiche del 2008, la crisi economica, la rottura confini, la mancata sfiducia alla Camera in quel 14 dicembre 2010. Il capo non è più quello di un tempo. Aggredito in Piazza Duomo da uno squilibrato e poi segnato dai tanti processi e dagli ultimi scandali, rubi, il bunga bunga e le cene di Arcore. Nel novembre scorso Berlusconi e il centrodestra, ad eccezione della Lega, aprono le porte al governo Monti, spendendo equamente in questi mesi appoggi e minacce all'esecutivo del professore. Queste amministrative erano il primo esame dopo il passo indietro da Palazzo Chigi, una bocciatura piena per il partito. Giorgio Straguadagno, deputato PDL, spiega il perché. È una batosta che io avevo previsto da tempo e credevo che il risultato fosse questo, perché noi, a differenza di quello che dicono la maggior parte dei miei colleghi del PDL, non paghiamo lo scotto del sostegno al governo Monti, ma paghiamo, semmai, se mi posso permettere di parlare, lo scotto al sostegno del governo Tremonti, cioè la politica economica che abbiamo fatto noi è quella che è stata punita perché è stata contraria a quella che avevamo promesso. Meno spesa pubblica, meno debito, più libertà economica, meno tasse, sviluppo dell'economia su questi versanti, e abbiamo fatto esattamente il contrario. Quello abbiamo fatto troppo a lungo perché potessimo ancora essere credibili. E la Italia in controluce, torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. Questa, come tutte le puntate, sono scaricabili in podcast. Ricordo che su Facebook trovate sia il gruppo che la pagina di Italia in controluce, e abbiamo anche un luogo che è su Twitter, dove trovate naturalmente tutti i temi della giornata, i temi quotidiani, e dove potete anche naturalmente raccontare ciò che voi volete ascoltare a Italia in controluce. Grazie allora Daniele Biacchessi, molti gli appuntamenti anche quest'oggi, 6:39 minuti 30 secondi, ancora buona giornata anche da Anna Migliorati, perché comincia la seconda parte di Prima Edizione. E io saluto oggi anche Maria Piera Ceci, non è venerdì, però eccezionalmente parliamo anche oggi di scuola, buongiorno. Cara Anna, oggi parliamo di un argomento che ti riguarda molto da vicino, ma non sveliamo ai nostri ascoltatori perché. Parliamo di scuola dell'infanzia. Oggi infatti vengono pubblicate le graduatorie per gli asili milanesi con le nuove regole della giunta Pisapia, che hanno sollevato peraltro molte critiche. Oggi comunque molte mamme, molte famiglie saranno dunque lì a spulciare i nomi, a sfidare la roulette delle ammissioni all'asilo, da cui tanto dipende la nostra organizzazione familiare e lavorativa. Intanto una cosa è certa, il vice sindaco di Milano e assessore all'educazione Maria Grazia Guida ha fatto sapere che mancano 250 educatrici nelle scuole dell'infanzia e nei nidi milanesi, e il Comune di Milano ha le mani legate, non può fare assunzione a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità. Quindi, come aveva già fatto con l'ex ministro Tremonti, chiede al governo una deroga per poter sbloccare le assunzioni. Questo, ben inteso, non è un problema solo milanese, eh? Chiedono deroghe anche ai comuni di Torino, Pisa, Bologna, Firenze, Napoli e anche molti altri. Ne parliamo questa mattina con la vice sindaco Guida. Buongiorno. Ma noi stiamo dialogando con il ministero, che devo dire ha colto tutto il lavoro e le informazioni che abbiamo dato come assessori delle grandi città con grande interesse e curiosità. Probabilmente non erano noti al Ministero i dati dell'importanza delle scuole dell'infanzia gestite dai comuni, perché sono scuole di competenza dello Stato, che richiedono grandi investimenti da parte degli enti locali, ma hanno bisogno anche delle necessarie flessibilità normative. Quindi grande attenzione da parte del governo, ma al momento non ci sono risposte? Ma diciamo che da parte del ministro Profumo e della sua organizzazione, del suo ministero, c'è una grande attenzione. Giustamente hanno dovuto rimandare la decisione al Ministero dell'Economia. Però settembre alle porte. Assolutamente, settembre alle porte, e noi dovremo, insieme alle colleghe delle altre città di Torino, Genova, Bologna, Napoli, Firenze, far fronte comunque ad un aumento di iscrizioni e, per esempio per la nostra città, ad un aumento delle conferme. Ecco, ma se non dovesse arrivare la deroga in tempi brevi e quindi entro settembre, cosa rischia in questo caso l'istituzione degli asili dell'infanzia milanesi? Ma come tutte le istituzioni dei comuni, rischiano di dover lasciare fuori bambini che avrebbero comunque diritto all'istruzione. In bocca al lupo allora. Grazie mille, grazie, buona giornata. Buona giornata. E buona giornata anche a te, grazie Maria Piera Ceci. Come dicevamo, il problema riguarda allora molte città, e allora ti ritroveremo magari in giornata per capire come è andata. Perché noi ora invece voltiamo pagina con uno sguardo alla TV di ieri sera. I rapporti tra 'Ndrangheta e Lega è ripartita da qui, riprendendo il filo interrotto di Vieni via con me Roberto Saviano, per introdurre il lungo reading ieri sera ancora con Fabio Fazio, stavolta sulla 7. Poi però ha toccato anche altri temi di stretta attualità: la crisi, la criminalità organizzata che si infiltra nelle pieghe della recessione, le finanziarie che, ha detto Saviano, spesso sono usura mascherata, ma anche un tema di cui molto abbiamo parlato a Radio 24, che è quello del dramma dei suicidi. Allora sentiamo ieri sera sulla 7 Roberto Saviano. Lavoro è vita, e senza quello esiste solo paura e insicurezza. Questa è una frase di John Lennon che disse durante un'intervista. Effettivamente è così. Il lavoro, sia che tu faccia un mestiere che ti dà soddisfazione, sia che sia un lavoro fatto per sopravvivenza, serve a misurarti col mondo, a trovare il tuo posto nel mondo. Insomma, il lavoro spesso coincide con la vita, è elemento fondamentale della vita, ma in quest'ultima fase è associata la parola lavoro, una parola che è il contrario della vita e quindi in qualche modo il contrario del lavoro stesso, il termine suicidio. In realtà questa sera non so davvero cosa servono fino in fondo le mie parole, ma provo semplicemente a dire che non è possibile scegliere la morte dinanzi a un problema economico. Lo so che è facile il pensiero dire sì, ma tu non sei in quella disperazione. Ma se fosse possibile fare un appello al governo per poter aprire sportelli dove rivolgersi in una situazione di grande difficoltà e poter capire come affrontare il debito, come affrontare le tasse che magari non si ha il denaro per pagare, ecco, bene, già questo sarebbe qualcosa. Perché la verità, e non si è detta abbastanza, è che a cadere sono le imprese che hanno agito correttamente in questi anni, sono le più fragili. Prima edizione. François Hollande, neo presidente francese, questa mattina si insedierà all'Eliseo congedando Nicolas Sarkozy, poi volerà a Berlino per incontrare Angela Merkel, indebolita dalla sconfitta elettorale, sì, ma non disposta a cedere facilmente sul patto di stabilità e sulla politica di rigore. Eppure da questo nodo passa inevitabilmente la nuova strategia europea per la crisi. E allora andiamo in Francia, andiamo a Parigi da Marco Moussanet. Buongiorno. Buongiorno a voi. Una giornata importante per Hollande, una giornata importante per l'Europa, questo cambio della guardia. Ma sì, sicuramente, anche perché questa pausa nella governance europea dovuta alle elezioni presidenziali francesi è durata francamente troppo lungo, soprattutto per un periodo come quello che stiamo vivendo, quindi è davvero l'ora che si riprenda, che si riparta, e ovviamente non si può che ripartire a livello europeo dalla concertazione franco-tedesca, un asse assolutamente essenziale per il continente. Con gli equilibri un po' cambiati, perché ci sarà un presidente francese appena acclamato nelle urne e una cancelliera tedesca un po' più indebolita. Peserà? Ma sì, sicuramente ci sono molti interrogativi, molti dubbi, molte incertezze sul riavvio di queste relazioni. I due leader non si conoscono, la Merkel ha apertamente parteggiato per Sarkozy durante la campagna presidenziale, quindi non c'è dubbio che ci sarà un momento, una fase di avvio che richiederà un pochino di tempo. Ciò detto, io non credo francamente che sia né nella volontà né nell'interesse di nessuno dei due leader, di nessuno dei due paesi, quello di andare a uno scontro sulla vicenda del patto fiscale, sul binomio rigore, non antitetico, in rigore realtà, crescita, austerità, certo, e crescita, non credo, anche perché francamente tra le priorità citate da Hollande, fondamentalmente quattro, cioè il project bond, lo sblocco dei fondi strutturali, le maggiori risorse alla BEI e la Tobin Tax sulle transazioni finanziarie, sono quattro temi su cui Berlino è sostanzialmente d'accordo, quindi credo che si troverà un compromesso tra i due paesi. Quindi insomma una rottura così netta con quella che era stata la linea fino ad ora in effetti in realtà non c'è. Senti, io ti faccio anche una domanda su quello che sarà invece questa mattina la cerimonia di insediamento all'Eliseo. Si annunciano toni diversi rispetto a quello che fu l'insediamento di Sarkozy con tanto di famiglia in pompa magna? Beh, senza alcun dubbio, diciamo che l'aggettivo forse più adatto per il cambio della guardia di oggi è sobrio. Non ci saranno né i figli che Hollande ha avuto con Ségolène Royal, i quattro figli che hanno avuto insieme, non ci saranno i tre figli che l'attuale compagna di Hollande, Valérie Trittweiler, ha avuto con il suo secondo marito, quindi sono anche cambiati i tempi ed è cambiato il personaggio della famiglia allargata di Sarkozy. Sono cambiati i tempi ed è cambiato il personaggio, indubbiamente. Senza dubbio. C'è un'idea, appunto, l'idea è quella di trasmettere all'opinione pubblica l'immagine di un potere appunto molto più molto più sobrio, sicuramente. E d'altra parte i tempi di crisi forse avrebbero un po' stonato. Hanno pesato più questi, secondo te, o il carattere privato di Hollande? Direi le due cose. Sicuramente non è un momento in cui esibire nulla, non è un momento in cui esibire il potere, la ricchezza, la forza, un momento in cui avere molto rispetto per chi sta faticando e soffrendo, d'un lato, e dall'altro sicuramente Hollande è uomo molto più discreto, anche a vita personale, rispetto a Nicolas Sarkozy, non c'è dubbio. Grazie davvero per essersi svegliato molto presto ed essere stato davvero con noi, Marco Mussanè da Parigi. Grazie, buona giornata. Ti sentiremo proprio in giornata per raccontarci tutto questo. Nel frattempo lo sentite, è tempo di chiudere con Prima Edizione. Grazie Carmelo Lauricella, grazie a Diego Rovelli in regia. Noi ci risentiamo tra pochissimo con GR24. Buon martedì da Anna Migliorati.